Mirtilli, barbabietola o uovo, erano questi i tre ingredienti tra i quali dovevate decidere per il nostro quiz, che era quale pigmento naturale utilizzava Leonardo da Vinci per dipingere. La risposta la sentite dentro questo servizio di Maria Chiara Albicocco su Bergamo Scienza. Ascoltate, lì dentro vi arriverà la risposta. Lasciamo l'energia ed entriamo nel laboratorio del colore. Mi sta aspettando Raffaella. Ci sono un sacco di strumenti, ma che tipo di laboratorio è questo, Raffaella? Questo è il laboratorio del colore. Proponiamo due percorsi in particolare. Uno, una tecnica per realizzare un inchiostro, come viene fatto nelle grandi industrie, utilizzando pigmenti artificiali, leganti artificiali. Facciamo realizzare un inchiostro e lo facciamo stendere utilizzando le tecniche. Poi esiste un altro tipo di percorso invece, che è il passato che ci insegna questo. Non si pittura soltanto ai giorni nostri, e ovviamente le tecniche pittoriche erano molto diverse a partire dai materiali. I pigmenti di origine naturale, quindi proponiamo l'estrazione di pigmenti naturali a partire dagli spinaci piuttosto che dai mirtilli. E poi, se riusciamo, se abbiamo tempo, vediamo anche di dar loro la possibilità di vedere come si realizzava una vera e propria pittura nel passato, usando l'uovo, come faceva Leonardo da Vinci. Quindi il rosso dell'uovo, i pigmenti naturali, l'aceto e l'acqua, e li facciamo dipingere poi. Ecco, credo che la soluzione l'abbiate trovata, era in quella parte del servizio dedicata al laboratorio del colore. La soluzione era l'uovo. L'uovo veniva utilizzato nelle sue due componenti, il tuorlo per amalgamare i colori e l'albume per dare lucidità alla tela. Io sono quasi certo, fra l'altro, che questa tecnica, cioè l'uso dell'uovo, sia qualcosa che in gran parte della pittura classica, ma anche quella contemporanea, molti utilizzano ancora. Questo era appunto un servizio su Bergamo Scienza. All'interno del nostro sito www.moebiusonline.eu trovate altri servizi, altri video soprattutto, cioè altri video. I video qui in radio non li potete vedere, in video invece li trovate sul nostro sito, e anche altri servizi audio.